البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Oggi riprendiamo le nostre consuete trasmissioni con un'intervista a Mirka Garuti, del direttivo di Alchemia, un periodico giornalistico online nato nel 2006 che si inserisce con la propria visione in un contesto in cui l'informazione, la cultura e la musica è ormai da tempo sempre più omologata alle grandi lobby del sapere e della comunicazione. Mirka Garuti fa anche parte della rete Kurdistan Emilia-Romagna e del comitato Per non dimenticare Sabra e Shatila, comitato che ogni anno, escluso il 2020, dal 2001 si reca in Libano, a Beirut, per la commemorazione del massacro avvenuto nel settembre del 1982 nei campi profughi di Sabra e Shatila. Mirka ci presenterà anche il libro fotografico Palestina, la patria negata, il cui ricavato servirà a finanziare attività nei campi profughi sostenute dall'associazione Assomud. Ascolteremo Mirka Garuti subito dopo la consueta selezione stampa e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela e vi parlo dei 5 articoli selezionati dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese sul cui sito potete trovare per intero. Il primo articolo, di Ariel Gold, evidenzia come la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Israele venga enfatizzata su tutti i media come la più massiccia a livello mondiale. In realtà nasconde la profonda diseguaglianza sanitaria esistente tra i palestinesi e israeliani. Il 20% dei palestinesi che vive in Israele rientra in questa campagna, ma non i 5 milioni che vivono in Cisgiordania e a Gaza. E questo perché, nonostante siano governati dall'autorità palestinese, di fatto è Israele che esercita il suo potere, essendo la forza occupante. E questo impedisce loro di ricevere l'assistenza sanitaria, nonostante gli accordi di Oslo del 1993 li obblighi a garantirla. L'ANP ha chiesto aiuto ad Israele per procurarsi il vaccino, ma questi hanno fatto sapere che al massimo possono offrire ciò che avanza. L'articolo di Michele Giorgio ci racconta del gravissimo ferimento di Harun al-Aram, un giovane palestinese di 24 anni, del villaggio di Al-Rahitz, a sud di Hebron, che per difendere il proprio generatore elettrico dai soldati israeliani che glielo stavano portando via, si è ritrovato con una pallottola alla gola sparata da una soldatessa. Se il ragazzo sopravviverà, sarà condannato ad essere tetraplegico. Al contrario, la soldatessa responsabile non sarà certo condannata nel caso, assai improbabile, venga sottoposta ad un processo. Nell'articolo di Richard Silverstein si sottolineano le contraddizioni in seno alla politica americana e nello specifico al Partito Repubblicano e Democratico alla luce degli eventi occorsi il 6 gennaio con l'assalto al Capitol Hill. Tra le persone che hanno assaltato il Campidoglio, oltre ai supporter del MAGA, Make America Great Again, con maglietta antisemita che inneggiavano ad Auschwitz, e dal gruppo 6MWE, cioè 6 milioni non erano abbastanza, vi era anche un tale Mostovsky, con una pelliccia di procione. E chi sarebbe questo signore? È il figlio di un giudice che è sia nel Partito Democratico che ex presidente di Young Israel, una organizzazione che sta alla destra del movimento ortodosso americano, che sostiene gli insediamenti illegali in Cisgiordania e che ha appoggiato la candidatura di Trump. Il fratello di quel signore vestito da procione è il direttore esecutivo di Young Israel. Tra le bandiere sventolate durante l'assalto vi era anche quella israeliana. E questo perché gli antisemiti ed i sionisti vanno a braccetto, proprio perché gli antisemiti ammirano Israele per il fatto della sua esclusività razziale, così come la vogliono i suprematisti bianchi per l'America. E questo ci porta dritti in Europa, dove gli antisemiti di Orban e Duda sono molto amici di Netanyahu, proprio perché vedono in Israele il paese dove il nazionalsuprematismo ha trionfato, come vorrebbero accadesse in Ungheria e Polonia. Rimaniamo negli Stati Uniti. Vi invito a guardare e ad ascoltare il video del neo senatore eletto in Georgia, Raphael Warnock. In questo video del 2018 mostra tutta la sua solidarietà al popolo palestinese, criticando apertamente Israele e le uccisioni dei palestinesi in occasione della marcia del ritorno. Peccato però che durante la campagna elettorale abbia rinnegato ciò, definendo Israele il miglior alleato degli Stati Uniti e condannando il BDS. Conclude la rassegna stampa l'articolo di Desmond Tutu, ex arcivescovo sudafricano e premio Nobel per la pace, con il quale invita la nuova amministrazione Biden a riconoscere che Israele è uno stato leader nella proliferazione delle armi nucleari. Infatti, non ho mai firmato il trattato di non proliferazione, e che quindi non necessita di ingenti finanziamenti da parte degli Stati Uniti, che puntualmente versano nelle casse israeliane, contravvenendo alle loro stesse leggi che vietano agli Stati Uniti di fornire assistenza economica e militare a stati che contribuiscono alla proliferazione nucleare. Per oggi è tutto, passo la linea allo studio. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم Buongiorno, sono Marisa. Oggi abbiamo in collegamento Mirka Garuti che ci parlerà, fra l'altro, del libro editato e pubblicato l'anno scorso. Infatti, a dicembre del 2020 è uscito il libro fotografico e anche di scritti dal titolo Palestina, la patria negata, il cui ricavato dalla vendita sarà interamente destinato alla realizzazione di progetti e attività sostenute nei campi profughi palestinesi libanesi dall'associazione locale Assumud. Per dare un'informazione più dettagliata, vorrei aggiungere che Assumud è presente in ben 12 campi profughi, che poi sono i 12 campi esistenti in Libano, e gestisce programmi rivolti ai temi sociosanitari, educativi, con asili, scuole materne ed elementari. I servizi forniti da Somud sono rivolti non solo ai palestinesi, ma anche alle persone in difficoltà di altre nazioni che vivono nei campi o nelle loro vicinanze. È un'organizzazione non governativa, non legata a nessun partito politico o gruppo religioso e che opera in Libano dal 76, dopo il massacro di Tel el-Azzatar, avvenuto durante la guerra civile libanese, e che contò circa 3.000 vittime palestinesi. Tel al-Zaatar, lo ricordiamo, è un campo di rifugiati palestinesi gestito dall'UNRWA e ospitava all'inizio fino a circa 50.000-60.000 rifugiati nella zona nord-orientale di Beirut. Fu costruito per volere di Arafat e da lui finanziato fino al 1982, per offrire assistenza e accoglienza ai numerosi bambini rimasti purtroppo orfani per via del massacro. Allora, Mirka, veniamo a noi. Innanzitutto vorrei domandarti come è nata l'idea di questo libro fotografico e anche di scritti dal titolo Palestina, la patria negata? Dunque, guarda, l'idea è nata, si può dire, quasi per caso, perché come comitato per non dimenticare, ogni anno dal 2012 realizziamo un calendario da tavolo con le foto scattate durante il viaggio che organizziamo in Libano nei campi profughi ogni settembre per ricordare appunto il massacro di Sabra e Shatila. Purtroppo a causa del Covid, a settembre scorso, per la prima volta, non siamo potuti ritornare in Libano. Preparare quindi un nuovo calendario per poi distribuirlo entro dicembre in Italia diventava complicato, sempre a causa di questa emergenza che ci impediva di muoverci abbastanza. Quindi abbiamo pensato di realizzare qualcosa di diverso, non, che non fosse datato, che potesse andare bene sempre. Quindi cosa c'era di meglio di un libro? E poi il 2020 rappresentava anche il ventennale della nascita del Comitato, perché è nato nel 2000, grazie al lavoro e all'impegno di Stefano Chiarini e Maurizio Musolino, purtroppo scomparsi entrambi nel 2007 e nel 2016. Il libro però doveva mantenere lo spirito del calendario, quindi doveva raccontare la storia del Comitato, parlare di Palestina, dei profughi palestinesi sparsi nel mondo, di una patria negata, insomma, far conoscere la verità di questo popolo dimenticato. Per questo, prima di tutto, ho pensato una prefazione, un'introduzione per spiegare il perché del libro. Poi, prima di ogni gruppo di fotografie, di illustrare il luogo e la storia di quello che volevamo rappresentare. E senti, il reportaggio fotografico come è stato realizzato? Perché so che c'è una particolarità in questo. Guarda, la stessa particolarità diciamo anche usata per i calendari, perché il reportage fotografico è realizzato da una raccolta di tutti gli scatti, di alcuni scatti dei partecipanti ai viaggi e per questo libro infatti io ho raccolto le foto dal 2004 al 2019 e ho utilizzato una trentina di fotografi, di amici appunto, di compagni del viaggio. Purtroppo non è stato facile dover scegliere tra tante fotografie e mi dispiace per quelli che sono rimasti esclusi. Il nostro obiettivo comunque è sempre quello di poter riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di persone che una volta rientrati dai viaggi possono continuare a divulgare informazioni sulla Palestina attraverso dibattiti, presentazioni di libro o semplicemente a raccontare. E avere in mano un calendario o un libro con le testimonianze dirette di quello che si è visto è un valore aggiunto, quindi un incentivo in più a rimanere in contatto tra di noi e a continuare a impegnarsi per questa causa. Tu fai parte della delegazione, come hai detto prima, del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila. Ecco, qual è il fine della vostra missione che ogni anno so che vi porta ad andare a questo appuntamento tanto importante per la memoria collettiva del popolo palestinese? Sì, io faccio parte del comitato ormai, proprio perché dal mio primo viaggio in Libano del 2004 ho sempre continuato ad andare e quindi così pian piano sono rientrata insieme ad altre persone a far parte dell'organizzazione. E voglio ricordare innanzitutto che il comitato ha contribuito soprattutto a trasformare l'area dove erano state sepolte tutte le vittime, i cadaveri del massacro di Sabra e Shatila, diventato nel tempo una discarica a cielo aperto, l'ha trasformata in un luogo di ricordo e di rispetto della dignità di quei corpi. Quindi è stato anche un risultato molto importante di una battaglia che era iniziata col tentativo di cancellare la memoria di quella strage. E il fine della nostra missione, che ci porta a settembre, è quello di partecipare insieme ai palestinesi alla manifestazione del 18 di settembre, che è il giorno clou che ricorda il massacro avvenuto nell'82 dai falangisti libanesi con la complicità di Ariel Sharon, che era il ministro della difesa israeliano, e del suo governo. I giorni del massacro quindi rappresentano i giorni della sofferenza del popolo e anche dei crimini impuniti degli israeliani. Il comitato poi è diventato internazionale, in quanto raccoglie l'adesione anche di tanti altri paesi stranieri come Spagna, Francia, Malesia, USA, Inghilterra, Singapore, Norvegia, Finlandia e Svizzera. E la nostra presenza in Libano è molto significativa per i profughi, per i rifugiati che ci aspettano tutti gli anni, proprio perché loro chiedono solo di non essere dimenticati dalla comunità internazionale che noi rappresentiamo. Certo. Senti, quindi da anni te vedi, vai con loro, sei testimoni, quindi ci puoi illustrare e spiegare com'è la situazione nei campi profughi del Libano? Sì, il Libano è dunque innanzitutto i palestinesi registrati presso l'UNRWA, che è l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, sono circa 450.000. E come hai detto tu prima, vivono nei 12 campi dislocati in Libano. Ce ne sono giù al sud, 2 a Sidone, 3 a Tiro, 1 a Baalbek nella valle della Bekaa, 4 intorno alla zona di Beirut e 2 al nord vicino a Tripoli. Poi, come in tutte le società, anche in quella palestinese, ci sono quelli che appartengono a una fascia medio-alta. E questi subito dal 48 si sono installati fuori dai campi nelle principali città libanesi. Comunque i campi non sono tutti uguali, quelli che troviamo in Libano, ognuno ha la propria storia. La differenza è data dalla posizione geografica, dalla presenza o meno di un comitato che li gestisce, dal numero degli abitanti, dalle diverse etnie che lo compongono. Nei campi infatti troviamo l'ateo, il laico, il disoccupato, il tossicodipendente, il venditore, l'artigiano, il medico, l'ingegnere. E questo può generare anche a volte purtroppo dei conflitti interni al campo stesso. E nei campi purtroppo è in aumento la violenza e anche la diffusione della droga. E questo purtroppo è un segnale di una sfiducia per quanto riguarda il loro futuro. La disoccupazione è molto alta, si aggira intorno su più del 30%. Il problema di lavoro è una cosa molto importante ed è dovuto purtroppo alle preclusioni del governo libanese, perché essendo privi di cittadinanza i palestinesi non possono accedere a nessun lavoro statale né essere iscritti agli albi dei liberi professionisti. Gli sono precluse oggi 39 professioni, all'inizio erano ancora 70, adesso sono scese a 39. Però possono quindi lavorare purtroppo in nero, sottopagati, svolgere lavori manuali o aprire anche un piccolo negozio, se lo possono fare nel campo in cui vivono. E alcuni servizi primari, come l'acqua potabile, l'elettricità, le fogne, le strade asfaltate, la raccolta di rifiuti, le linee telefoniche, purtroppo mancano ancora e se ci sono sono molto insufficienti. Poi un altro aspetto importante è quello legato alla dimensione del campo, perché sempre per una legge libanese non può superare il chilometro quadrato. E quindi con l'aumento della popolazione, la crescita naturale di chi ci abita purtroppo dal 48, ma anche per l'arrivo di nuovi rifugiati da causa altre guerre tipo quella della Siria, però anche causa la enorme povertà che c'è anche in Libano stesso, e quindi hanno obbligato per poter avere spazio e altri appartamenti a innalzare piani già sulle case esistenti, quindi senza un piano urbanistico progettato. e quindi non è la cosa che unisce tutti i campi, invece questo proprio un modo di vivere non dignitoso, il campo degli ultimi, non per loro volontà, perché loro non sono profughi per loro volontà, purtroppo c'è qualcuno che li ha messi lì, che ha deciso che stiano lì e non vuole che tornino indietro, loro non vogliono essere libanesi, vogliono ritornare a casa loro. E come tutte le persone avrebbero il diritto di poter lavorare, studiare, muoversi, curarsi, eccetera, cosa che purtroppo a loro è negato. E penso che le fotografie possano rendere abbastanza bene la realtà del campo, però è un'altra cosa quando si è là personalmente, quando si gira tra dai vicoletti stretti, sempre in terra battuta con gli scogli a fogni aperto, alzare lo sguardo per cercare un po' di luce, ma trovi solo tantissimi fili dell'elettricità attorcigliati ai tubi dell'acqua, e poi gli odori che senti quando giri, è un misto tra aromi, spezie, fogne, rifiuti, quindi questa purtroppo è la realtà che noi abbiamo sempre vissuto quando andiamo là. E purtroppo loro sono là dal 48 e quindi non purtroppo da ieri. Il Libano non cambierà certamente le leggi a loro favore e quindi è un dramma molto ampio e diciamo per, non so, la speranza che possano ritornare a casa loro diventa sempre più piccola. Poi non mi sto a dilungare sull'associazione perché, come hai detto tu prima, che l'hai presentato benissimo, per fortuna i palestinesi dentro i campi riescono ad avere dignità e ancora resistere nella loro situazione grazie proprio all'associazione Assomud che tu hai illustrato precedentemente nella figura di Kasser Maina, che è il suo presidente. Bene, per il momento facciamo un piccolo stacco musicale. إن الزعتر يمحي كل حدود الأرض فينبت في الماء وفي الصحراء في الماء وفي الصحراء وعرفت لماذا لماذا لماذا عرفت لماذا وعرفت لماذا. Il timo cresce sul colle e ai piedi del colle. Chiedilo al vento e saprai. Il timo unifica il tempo, cancella i confini. Cresce nell'acqua e nel deserto. Ora so perché un giorno a Beirut bande di fascisti, rinnegati e separatisti assediarono il timo. Ora so perché l'odore del timo è più forte di tutti gli odori di questo secolo ebro di notte. Ora so perché la terra è assediata dal timo, perché la terra è assediata dai poveri, perché la terra è assediata dal futuro. أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل. Tale Zatar, che in arabo significa collina del timo, nasce come campo profughi palestinese nel 1950 a sud-est di Beirut, verso la montagna. Dapprima isolato, con l'espandersi della città assume sempre più l'aspetto di un grande quartiere proletario della periferia della capitale libanese. Come ogni campo palestinese, Tale Zatar porta con sé la storia di questi ultimi 30 anni. La storia di un popolo che aveva una patria, una cultura, una tradizione, che era nazione ed è stato trasformato in una massa errante di profughi. Una storia di persecuzioni e sofferenze inaudite, di miseria e umiliazioni senza fine. Bene, riprendiamo con Milka Garuti. E prima abbiamo parlato, gli abbiamo chiesto della situazione dei campi profughi in Libano. Ecco, adesso mi interesserebbe, ecco, sapere se ci puoi dire qualcosa invece sui campi profughi in Cisgiordania, che penso tu abbia visitato. Guarda, per i campi in Cisgiordania purtroppo io non ho una conoscenza diretta, ma solo le testimonianze degli altri compagni che ci sono stati. Io ho provato una volta sola andare in Cisgiordania nel 2002, non mi è andata bene, mi hanno respinta e da allora non ho più riprovato. Però il comitato, proprio per dare voce a questo popolo dimenticato e a riportare alla ribalta il diritto al ritorno, nell'estate del 2015 ha organizzato 3 missioni in contemporanea, Cisgiordania, Giordania e Libano. E in realtà dovevano essere 5, compreso la Siria e Gaza, però non abbiamo potuto arrivare in Siria e Gaza, quindi abbiamo fatto solo queste 3 missioni. Io ho scelto la Giordania, però gli altri compagni appunto sono andati in Cisgiordania e ritornati in Libano. Io posso dire che i palestinesi sempre registrati presso l'UNRWA in Cisgiordania come rifugiati sono più di 800.000 e di questi solo 190.000 vivono nei 19 campi profughi esistenti. Gli altri, pur rimanendo profughi, risiedono e svolgono le loro attività nelle città e nei villaggi senza il sostegno dell'UNRWA. E questo succede perché sia nel 48 e nel 67 sono stati deportati e costretti a vivere in accampamenti che nel corso degli anni poi sono diventati campi profughi, sotto la gestione amministrativa dell'UNRWA, che dovrebbe provvedere all'assistenza, sanità, istruzione e gestione alimentare. Poi chi ha visto i campi profughi sia in Libano che in Cisgiordania afferma che i peggiori rimangono sempre quelli del Libano. Qui vivono sulla loro terra, però sono stranieri i palestinesi, privati da ogni diritto e soprattutto devono fare i conti con i coloni, con le tante incursioni militari che avvengono spesso di notte, con i continui coprifuoco, arresti, uccisioni, devastazioni di abitazioni e ulivi. Poi dobbiamo ricordare che i campi profughi in Cisgiordania sono stati regolati dagli accordi di Oslo del 94, che hanno diviso la Cisgiordania e la striscia di Gaza in 3 zone. L'area A, che comprende le grandi città come Ramallah, Nablus, Gerico, Jenin, Betlemme, Tulkarm e una parte di Hebron, in cui i palestinesi hanno la totale competenza sull'amministrazione e sicurezza. Però queste aree sono solo il 3% di tutta la Cisgiordania e il 60% invece su Gaza. L'area B, che comprende le zone rurali intorno a queste grandi città, dove la sicurezza è gestita dagli israeliani, mentre i palestinesi hanno l'amministrazione e raggiungono il 27% della Cisgiordania. Infine c'è l'area C, che è quella più ampia, che corrisponde al 70% della Cisgiordania e il 40% della striscia di Gaza, di cui gli israeliani hanno completa competenza sia su sicurezza e amministrazione. E questa zona include quindi la zona, l'area C, i territori poco popolati, zone industriali, sobborghi, ci sono alcuni sobborghi intorno a Gerusalemme e l'altra parte rimanente di Hebron. E ci sono tutti gli insediamenti dei coloni che fanno da cuscinetto tra i vari settori. Da ricordare dei coloni che 20 anni fa erano solo 100.000, oggi superano il 500.000 e continuano sempre ad aumentare. Anzi, sotto la presidenza Trump, gli insediamenti sono proprio quadruplicati. E quindi si può capire come possono vivere in questa situazione. Poi nell'area, tra l'altro, palestinese, sotto il controllo palestinese, ci sono circa 22 checkpoint fissi, più quelli mobili che aprono e chiudono secondo il piacere degli israeliani. C'è un sistema di interruzione delle strade, quindi impedisce la comunicazione, e un sistema idrico per cui gli israeliani aprono e chiudono l'acqua secondo quello che gli interessa loro. E quindi è un modo proprio per soffocare la popolazione qui all'interno della Cisgiordania. Poi non si può non parlare del muro, perché qua questo muro, questa barriera orribile di 700 chilometri, che è il simbolo dell'appurazione della vita del popolo palestinese e blocca ogni contatto umano, sia di vita che di lavoro, di studio. La sua costruzione purtroppo continua e nessuno ha mai cercato di bloccarla. E purtroppo c'è una piccola contraddizione, perché il muro l'hanno anche costruito molti muratori palestinesi. Questa contraddizione però la si capisce, perché la disoccupazione qua è oltre il 60%, quindi se devono continuare a vivere devono purtroppo chinare il capo e fare anche queste cose. Quindi questa è un po' la situazione generale della Cisgiordania. Sì, sono compromessi, penso, molto costosi in termini psicologici al quale sono sottoposti i palestinesi, sì. E parliamo anche di Gaza a questo punto, che è una situazione estrema, al limite se non oltre la sopportazione. Non so, te ti sei recata anche lì, ci puoi dire cosa hai visto e hai sentito? Guarda, per fortuna devo dire che ci sono stata, sempre con il comitato nel 2014 siamo stati. Il nostro obiettivo era proprio quello di denunciare l'occupazione sionista e il trattamento razzista del governo israeliano nei confronti del popolo palestinese. Volevamo rompere l'assedio di Gaza e portare l'attenzione della gente come vivono, come vivevano e come vivono tuttora, e portare anche all'ospedale Al-Auda, che è dentro a Gaza, delle medicine e un contributo economico che avevamo raccolto. Devo dire che abbiamo trovato parecchie difficoltà, perché noi dovevamo inizialmente andare ad agosto del 2013, poi per quello che stava succedendo all'epoca con colpo di Stato in Egitto, visto che passavamo dal valico di Rafah, non è stato possibile partire ad agosto, quindi abbiamo spostato la data a fine dell'anno. E a fine di dicembre, anche perché poteva essere, era l'anniversario della Gaza Freedom March e anche di Piombo Fuso, e quindi siamo partiti alla fine dell'anno, però anche lì siamo stati bloccati in Egitto, e invece del 28 di dicembre siamo passati il 2 di gennaio per andare a Gaza. E Gaza, uno non sembrerebbe, non ci pensa, ma un tempo è stata una terra sempre ricchissima di storia. Fu uno dei crocevia più battuti del vicino Oriente, era il centro amministrativo di numerose città mercantili fondate proprio dall'Egitto. Beneficiò anche dell'apertura di rotte commerciali del Mediterraneo e grazie al suolo fertile che aveva divenne un importante centro agricolo, tanto che fu chiamata l'Oceano del Grano. Gaza era abitata più che altro da beduini, da nomadi. Quando nel 48 con la Nakba si sono visti arrivare oltre 200.000 persone in fuga dalla violenza di israeliani, quindi profughi palestinesi in un modo del tutto inconsapevole hanno cambiato la vita di questi abitanti di Gaza. Inizialmente la loro vita era di sudditanza rispetto ai nativi di quel territorio, poi con la seconda occupazione del 67 gli abitanti di Gaza, i vecchi e i nuovi profughi, si sono trovati entrambi sotto il dominio di Israele, per cui la nascita poi della resistenza palestinese ha contribuito a eliminare le loro differenze e a riscoprire una coscienza nazionale. E quindi la striscia di Gaza è un pezzo della Palestina occupata e si trova da molti anni sotto assedio, costretta alla fame, all'oscurità e mancanza di libertà. E la questione quindi non è più umanitaria, ma è solo politica. Ha una superficie, come voi sapete tutti, di 360 chilometri, su cui ci vivono più di 1.900.000 persone. Il 73% sono solo profughi e il 45% di questi profughi vivono negli 8 campi che si trovano a Gaza e che sono stati costruiti, diciamo, dall'esercito egiziano, confiscando le terre allora degli abitanti di quel territorio. Poi da ricordare a Gaza che una fase molto importante è stato il ritiro unilaterale di Israele da Gaza nel 2005. Non è stato altro che un passo strategico per Israele, perché così lascia la popolazione di Gaza, 1.800.000 di persone, al loro destino separato da quello degli altri della Cisgiordania. Quindi un modo per impedire la nascita di uno Stato palestinese unito, Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme. Israele quindi ha ottenuto il pieno controllo su questo piccolo pezzo di terra, dal cielo, mare e terra, chiudendo Gaza all'interno di una prigione virtuale, ma sempre una prigione violenta. E poi dal 2007, quando Hamas ha preso il controllo su Gaza perché aveva vinto le elezioni del 2006, Gaza è stata chiamata un'entità nemica e per questo gli fu imposto un blocco alle importazioni e esportazioni che mise in ginocchio l'economia di questo piccolo territorio. Poi si moltiplicano anche tutte le operazioni militari israeliane contro di loro. I campi profughi sono piccole, diciamo, zone dove sono stati costruiti questi edifici con tetti di lamiera, amianto, anche qua stretti passaggi dove non c'è aria, dove mancano tutte le infrastrutture fondamentali, la raccolta dei rifiuti, l'acqua, che l'acqua è costantemente salata da ogni rubinetto, compreso anche quelli degli alberghi, il sistema fognario, la luce che manca perché la sera c'è totalmente buio. Noi abbiamo, rimanendo là una settimana, abbiamo vissuto come i Gazawi che fanno tutti i giorni, diciamo. Abbiamo vissuto il dramma dei pescatori, perché le loro limitazioni, le miglia nautiche dove possono pescare. Inizialmente erano 20 miglia, che potevano arrivare fino a 20 miglia, poi sono diminuite 12, 10, 8, 6, fino ad arrivare nel 2012 a 3 miglia. E i pescatori all'inizio erano 6.000, sono proprio dimezzati, sono meno di 3.000 adesso. E noi abbiamo assistito in diretta, quando eravamo là, a una sparatoria di una motovedetta israeliana nei confronti di una piccola barchetta che era uscita in mare insieme ai tre figli e un nipote, dentro le 3 miglia, quindi era nel suo spazio giusto, diciamo, e loro hanno cominciato a sparare per divertimento le bottiglie di plastica, la barca. Infatti non ci sono stati feriti, ma solo danni alla barca. Così, tanto per dire, noi siamo qua, state attenti che noi ci siamo. E poi siamo stati anche al confine con Israele, di fronte al valico di Erez, e un insediamento israeliano da dove l'esercito spara verso Gaza. E qui anche gli accordi di Oslo avevano stabilito subito una fascia come zona cuscinetto tra Gaza e Israele, su una terra palestinese, di una distanza iniziale di 50 metri. Questa zona prima è sempre stata una terra agricola con ulivi, limoni, arance, melograni, ora è un campo, posso dire, della morte, con filo spinato, torrette d'avvistamento e palloni sonde. Infatti quando eravamo lì avevamo i palloni sopra che ci guardavano, fotografavano, eccetera. E quello è stato il momento forse più brutto. Dopo la seconda intifada nel 2000, Israele aumenta questa distanza tra loro e Gaza da 50 metri, l'ha portata a 150 metri, tagliando tutti gli alberi al di sopra di un metro. Poi la zona di sicurezza dopo piombo fuso, quindi 2008-2009, è diventata 300 metri e oggi non è possibile più ricostruire un'area agricola in quella zona. E in alcune zone adesso il limite è diventato 1 chilometro e in alcune parti anche 2 chilometri, e quindi questo è proprio una cosa inimmaginabile. E in questa zona veniva spesso Vittorio Rigoni, perché veniva per difendere i contadini, per manifestare contro l'occupazione. Alla sera noi giravamo per Gaza, ma eravamo completamente al buio, però non eravamo mai soli, perché Hamas ci ha la scorta segreta in silenzio, ci ha sempre seguito in tutte le nostre spostamenti, iniziative, bar, ristoranti, dove andavamo, e loro erano sempre con noi. Quindi è difficile vivere a Gaza, che il governo di Hamas ha costretto le donne a portare il velo, ha suddiviso le scuole tra maschi e femmine, sia studenti che persone deficienti. È severamente proibito tra un uomo e una donna qualsiasi atteggiamento d'affetto, che sia un abbraccio o la presa della mano. E quindi, riassumendo, l'affollamento dei campi, l'elevato tasso di disoccupazione, le abitazioni e infrastrutture inadeguate, il blocco ai confini, la recessione economica, l'impoverimento, gli assassini mirati, i bombardamenti, ricorrenti spedizioni militari, fanno sì che la vita a Gaza si svolga tra disperazione e ribellione e un desiderio di rivalsa su tutto, e quello come stanno facendo adesso con tutte le varie manifestazioni che continuano a fare. Poi adesso con la pandemia, quindi siamo proprio arrivati, e tutto questo purtroppo nel silenzio totale della comunità internazionale. الاحتلال عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفال نار الشرمال يا بلادي العود قريبي والانتفاضة شعالي من مخيم لمخيم من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار حي فيك الباسة لو درب المشوار حي كفاح الخيال وحي الأحرار حي فيك الباسة لو درب المشوار حي كفاح الخيال وحي الأحرار مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض سي A sentire questo tuo resoconto fa venire i brividi e ci si domanda come fa questo popolo a sopportare da ormai 70 anni, no? Questa situazione che ha avuto poi un'escalation nel corso dei vari decenni. La questione palestinese è una questione molto spinosa da sempre, che dura da moltissimo tempo, come dici tu, nel silenzio totale, quasi totale della comunità internazionale al servizio del governo israeliano. Israele continua da sempre, fra l'altro, a impedire il ritorno dei profughi, che rimane il cuore della questione palestinese. Ecco, su questo ti vorrei chiedere, qual è la soluzione che vedi possibile riguardo a questo diritto finora negato? Bella domanda. prima di tutto voglio ribadire che secondo me, almeno il mio punto di vista, noi attivisti possiamo fare solo delle supposizioni riguardante la soluzione a questo diritto negato, perché non siamo noi a dover dire quello che è meglio per i palestinesi, sono loro a scegliere la soluzione migliore per loro stessi e noi accettare quello che loro scelgono. La verità purtroppo è crudele, come hai detto, il tema del diritto al ritorno per il popolo palestinese è il centro di tutto, ma per gli israeliani invece no. Esistono in effetti due diritti al ritorno, quello che è stato dato agli ebrei e quello negato invece ai palestinesi. E questa richiesta non è mai stata discussa da Israele, non l'ha mai messa sul tavolo delle varie trattative di pace, così si possono chiamare. E oggi più che mai è evidente che Israele non vuole riconoscere questo diritto. Alcuni studiosi poi che ho letto sostengono che la risoluzione 194 è stata varata proprio per compromettere il ritorno dei profughi palestinesi e più precisamente l'articolo 11 che condiziona il ritorno alla risoluzione dei conflitti e la firma di un trattato di pace globale. Israele ha sempre rifiutato tutte le risoluzioni ONU, compreso questa, e lo usa per includerlo a un discorso di un futuro Stato, se mai dovesse nascere, accettando il ritorno di un piccolissimo numero di rifugiati, spalmato però in decenni. Israele basa la sua forza sulla debolezza dei palestinesi, la loro divisione, sull'appoggio USA e di alcuni stati arabi. Ma i villaggi palestinesi distrutti, abbandonati, sono ancora lì e gli insediamenti sionisti sono ai margini di questi villaggi. c'è stata una ricerca condotta da un studente palestinese che ha presentato mappe e prove dove dice che è dimostrato il possibile ritorno del 92% dei rifugiati alle loro case, senza che nessun colono ebreo debba essere cacciato dalla casa dove abita. Quindi, in realtà, il diritto al ritorno potrebbe essere possibile. Per questo però è necessario che il popolo palestinese ritorni a essere unito per sconfiggere l'unico nemico, il vero nemico che hanno. E volevo ricordare qua che cadono, diciamo come si dice, a fagiolo, alcune parole di Bassam Saleh, che è il nostro amico palestinese, giornalista del Comitato, per non dimenticare, che in una trasmissione online fatta il 20 dicembre scorso, dal titolo Palestina e diritti negati, ha detto che i diritti non si trattano. Il diritto alla vita, a una patria, alla salute, allo studio e alla dignità, ad avere uno Stato con carta d'identità, sono tutti diritti universali non trattabili. I palestinesi della Cisgiordania vivono sulla loro terra, ma senza il diritto nazionale di vivere come tutti i popoli. Io palestinese, continua Bassam, devo avere il diritto di essere considerato come un cittadino riconosciuto con passaporto, su un confine riconosciuto a livello internazionale e anche dall'ONU, perché è stato l'ONU il primo a fare il primo danno. Non c'è un confine per entrare in Palestina, ma si deve attraversare il confine israeliano, dove è possibile essere sempre respinti. Non c'è libertà di movimento, all'autodeterminazione e al diritto al ritorno. Il loro obiettivo è quello proprio di che tutti i palestinesi siano messi fuori dalla Palestina. E sempre nella stessa trasmissione Stefania Limiti, giornalista e scrittrice sempre del Comitato, conclude la sua testimonianza sperando in un nuovo protagonismo da parte dei giovani, perché è infatti un protagonismo che da lontano 87 pian pianino è sempre diminuito, è diventato quasi inesistente. Quindi bisogna ridare voce a questo popolo e questo spetta purtroppo, diciamo, ai giovani palestinesi. Però concludo dicendo che in questa lotta per i diritti, in modo particolare il diritto al ritorno, ha un ruolo fondamentale, secondo me molto importante e decisivo, che può aiutare, è il movimento BDS. Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, perché è un movimento per la libertà e la giustizia, l'uguaglianza, guidato dai palestinesi stessi. Israele, anche con il sostegno internazionale, nega ai palestinesi i diritti fondamentali e poiché i governi non hanno reagito e non reagiscono, la società civile palestinese ha fatto appello alle persone di tutto il mondo come solidarietà per unirsi a questa lotta. Il BDS quindi promuove una pressione non violenta su Israele fino a quando non rispetterà il diritto internazionale, metterà fine all'occupazione, alla colonizzazione di tutte le terre arabe e allo smantellamento del muro. Non è contro, sottolinea, i cittadini di Israele, ma contro le politiche del governo. Per questo Israele, però, con l'aiuto dei suoi alleati, cerca di fermare il BDS con azioni di diffamazione e repressione. Infatti l'attuale strategia di Israele è quella di confondere l'antisemitismo dei suprematisti bianchi con l'antisionismo e l'anticolonialismo, sostenendo infatti che quelli che odiano gli ebrei su basi razziali e religiose e quelli che si oppongono al colonialismo e al razzismo sionista sono la stessa cosa, le mette tutti sullo stesso piano. Tutta questa lotta contro il BDS significa che però Israele ha paura di questo movimento e delle sue campagne che portano in effetti molti buoni risultati. Quindi forse bisogna continuare su questa strada aumentando le azioni del BDS, continuando ad andare sui posti e a denunciare questo stato di cose. E poi speriamo che questo possa essere sufficiente per un ritorno alla loro terra. Sì, ce lo auguriamo tutti. abbiamo avuto degli esponenti del BDS nelle nostre trasmissioni, proprio per il valore e l'importanza che questo movimento sta dando per la causa palestinese, anche perché è osteggiato moltissimo dagli israeliani perché gli tocca il lato economico, insomma, e quindi il consenso internazionale anche su questo. Bene, io ringrazio quindi Mirka per tutte le informazioni che ci ha fornito e Mirka, ti attendiamo di nuovo ai nostri microfoni per un'altra interessante tua testimonianza. A presto quindi. Grazie mille, grazie a voi allora. Grazie di nuovo. Per la rassegna musicale in questa trasmissione avete ascoltato Feroz in Liberut, un brano tratto dal film Tal el-Zatar, la collina del Timo, del 1977, per la regia di Ali Abu, Mustafa, Pino Adriano e Jean Chamoun. Il film ricostruisce la storia del campo quartiere di Tal el-Zatar e della sua resistenza nel contesto della guerra libanese, così come l'hanno raccontata i protagonisti, le donne, gli uomini e i bambini palestinesi e libanesi abitanti nel campo e sopravvissuti alla tragedia. Palestine Music of the Intifada del 1989. E a seguire, per sempre per la rassegna musicale di oggi, ascolterete We Will Not Go Down, ballata per Gaza, una ballata che suscitò molte polemiche in Israele. Potete bruciare le nostre moschee e le nostre case, le nostre scuole, ma il nostro spirito non morirà mai. Queste alcune parole della canzone. A seguire il trailer del film Il giardino dei limoni di Aaron Reichlis, una coproduzione Israele, Germania, Francia del 2008. E per ultimo, per ricordare Gaza e Vittoria Regoni, un adicum. Sul blog di questa settimana inoltre troverete anche il link all'articolo del giornalista Robert Fisk, scomparso il 30 ottobre del 2020. Articolo che il grande giornalista scrisse quando fu tra i primi ad arrivare nel campo profughi di Sabra e Shatila, dopo il massacro di migliaia di palestinesi nel settembre del 1982. L'articolo porta il titolo «Ce lo dissero le mosche». Inoltre troverete il link al film documento dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico «La lunga marcia del ritorno», un documentario di circa 30 minuti che, attraverso le riprese effettuate nella Valle del Giordano, nei campi profughi, nelle città e nelle campagne della Giordania, affronta il problema del popolo palestinese dalla sua origine storica alla situazione sociale che lo caratterizza, alle forme di lotta per raggiungere la sua liberazione. La regia è di Ugo Adilardi, con Carlo Schellino, Paolo Sornaga e la voce narrante Pierangelo Civera. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento su Radio Wombat a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! Flash of white light, lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. It came with the rains and the plains, with ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up to the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosque in our homes, in our schools, but a spirit will never die. We will not go down Gaza tonight.

أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أحكي في التوريو رمز السلام والحب، رمز إيماني بالحق، رمز إرادة الشعب. أحكي في التوريو زرعت فينا القوة، نزع منها الخوف، سلب منها الشر. سيف التوريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة. أحكي في التوريو إحنا إلنا أخي الشرف، نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد. أنت فلسطيني فيك، أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أيادي.